rubami la notte. Voglio stare fuori come alberga, nel fuoco non si dorme. Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile. Tu sai di ginger beer, non di ginger roger. Oggi resta qui, spezzami la voce. Non ti posso promettere fiori di loto. Non vorrei diventare passato remoto. Dicevi che io e te ci abbiamo Saturno contro. Pagherò gli astrologi per darti torto. Cambia la canzone ma noi mai. Io con la Coca-Cola, tu con la tisana dai. Rubami la notte. Voglio stare fuori come alberga. Nel fuoco non si dorme. Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile. Ci sei solo tu. Nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nei salti, solo tu. Quest'estate ci assomiglia già. Come curiosity, cercami la vita addosso e schiantati. Come le stelle d'agosto, tu sei un personaggio che in cerca d'autore. Ma lo sai che non posso più urlare il tuo nome. Fammi vedere la tua foto a carnevale, quella al mare, quella con il broncio ed una con lo stronzo che ti ha fatto male. Poi una foto nonsense, ma questa sei davvero te. Rubami la notte, voglio stare fuori come alberga. Nel fuoco non si dorme. Sarà che nei tuoi occhi vivo due smile. Ci sei solo tu. Nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nei salti, solo tu. Quest'estate ci assomiglia già. Ci amiamo pur parle, tu fingiti d'ori che farò da André. Sulla schiena c'hai la musica merre, una cassa in quattro che si perde dentro un re. Ci amiamo pur parle, tu fingiti Diana che farò al fire. Metterò nei zoom, sono in fase REM. Non si chiama fine, solo l'ultimo jumpscare. Rubami la notte. Voglio stare fuori come alberga, nel fuoco non si dorme. Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile. Ci sei solo tu. Nei sogni, nei viaggi, nei soldi.